La necessità di questo libro è una necessità che va in parallelo coi tempi, cioè a parte tutte le misure repressive varate dal governo in carica, no? Pensiamo al decreto anti-rave, al DDL sicurezza che vuole arrivare anche a punire la libertà di pensiero, poi c'è anche l'aspetto relativo a quello che sta succedendo oggi, che tutti, anche il centro-sinistra, si affollano al mercato della sicurezza a parlare della necessità di prendere la sicurezza sul serio, quindi noi abbiamo ritenuto di fare questo libro e di parlare proprio del pericolo che rappresenta l'eventualità che il dissenso venga sempre più ristretto quando non represso in maniera sotto forme surrettizie. Questa è la necessità. Ci sono autori come Alessandro Agostino, come Rossella Selmini, come lo stesso Livio Pepino che hanno lavorato per anni in questi ambiti e quindi che ci possono aiutare ad orientarci all'interno di questo contesto pericoloso che si sta creando in particolare negli ultimi 3 anni. Questo è lo spirito che ha animato il libro. La criminalizzazione del dissenso è una cosa che non comincia con questo governo, però c'è stato un salto di qualità? Sì, diciamo, la criminalizzazione del dissenso, volendo, se vogliamo fare risalire a qualcosa, risale al 7 aprile del 79 con la caccia alle streghe che venne messa in atto. Oggi questo governo invece, dal decreto anti-rave che è un modo surrettizio per la adunata sediziosa, dal tutti l'eventualità che parla di DL Gasparri per esempio di introdurre il veto di antisemitismo, sono tutti aspetti salienti con cui ci dobbiamo misurare, oppure la norma anti-Gandhi, il reato di rivolta passiva, tutti questi aspetti sono tutti contemplati nel nuovo DDL sicurezza, quindi il salto di qualità è stato fatto senz'altro, cioè siamo nella fase di quella che io chiamo la repressione preventiva, proprio perché si tenta di soffocare sul nascere il dissenso. Sono tanti gli ambiti che vengono prese in considerazione nel libro, giusto? Sì, sono tanti, appunto all'occupazione delle case, che si va a criminalizzare un bisogno sociale diffuso, al blocco stradale, alla resistenza passiva in carcere, resistenza passiva anche il non obbedire, l'insubordinazione agli ordini della polizia penitenziaria. Quindi ci sono vari ambiti all'interno dei quali questa criminalizzazione del dissenso si articola. Poi anche questa idea di introdurre il veto di antisemitismo, che surrettiziamente cosa vuole dire? Non si può parlare di Palestina, non si può parlare dei crimini di Stato e dei crimini di guerra commessi dal governo israeliano, che invece sono sotto l'opinione pubblica, sotto il gli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Parlando di questo, in questo libro vogliamo appunto fornire delle chiavi di lettura per capire la profondità la gravità della situazione e invitare a mobilitarsi. Appunto, nel libro, come dire, è una denuncia di questi fenomeni o c'è anche qualche indicazione per gli attivisti? Diciamo, le indicazioni sono quelle appunto di continuare comunque a seguire i canali garantiti dalla Costituzione per la libertà di manifestazione, di riunione, di associazione, anche di mobilitarsi per rovesciare, diciamo, questa situazione attuale. Ora, per esempio, il decreto Caivano è stato già bocciato alla Consulta, adesso anche il DDL sicurezza è sotto la lente della Consulta stessa, per una mobilitazione, una presa di coscienza, una partecipazione in prima fila può essere, diciamo, lo strumento adeguato a contrastare questa deriva autoritaria che il nostro paese sta vivendo. Questa involuzione autoritaria è una questione che riguarda solo l'Italia, perché sembra di vedere fenomeni analoghi anche in altri contesti? No, certo, diciamo, l'Italia ovviamente risente, diciamo, degli influssi di altri ambiti. C'è Trump negli Stati Uniti, valga per tutti. Poi in Inghilterra, anche se c'è il governo di sinistra, già 10 anni fa il governo di Theresa May fece la legge Prevent, per cui considerava estremiste tutte le posizioni contrarie alla posizione del governo. Quindi è un processo di lungo periodo che risale a 10 anni fa, che in parte, diciamo, con la pandemia ha fornito il destro a chi voleva stringere ulteriormente le maglie e che adesso approda a questo punto. Però l'Italia, con un governo presieduto da un esponente di un partito che si richiama alla fiamma tricolore, costituisce, diciamo, un esempio ancora più peculiare, ancora più allarmante.